miseria d'avrà si provvide di una ciupita del Giappone. Te sei tabula ciorita, guagua che guagua co. Entre tú y yo, nunca nos podremos.